Io sono rimasta esterrefatta dalle modalità con cui lei comunica e interloquisce con i suoi auditori radiofonici. Mi incuriosirebbe capire come lei si definisce professionalmente, che tipo di messaggio lei vuole trasmettere con queste modalità così particolari con le quali lei comunica con i suoi interlocutori radiofonici. Ma non so se la cosa sia di grande interesse, comunque... Mi insulti, la prego. No, io sono una persona abbastanza tranquilla. Mi faccio una domanda precisa, però, perché non l'ho capito. La domanda qual è? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Cruciani, scusa, ma il suo parente, ma cosa parla? Non è mai entrato nessuno a casa sua? Ma il ladro doveva starsene a casa sua e sarebbe qui con noi ad ascoltare la vostra trasmissione, hai capito? Pronto, pronto. Allora, ma com'è possibile? Com'è possibile che noi accogliamo questi manninghi che vengono dall'Africa? Sono 900 milioni in Africa. I manniti, quelli che arrivano, africani che arrivano con le cose, i neri, sono i neri muscolosi che arrivano, che non c'entrano niente con la fame. Io posso sfidarli perché sono super armato, chiaro? Io sono super armato, perciò li posso sfidare. Io sono un discreto, hai capito di che sono armato, ma comunque, ho un discreto, un abbondante fallo, chiaro? Le donne dicono sti uomini che tenne le barbe, no? Sa credere che quella è virilità, ma quale virilità? Là ci vuole la nerchia. Sì, fermi tutti, qui bisogna fare una grande... Fermi tutti, bisogna fare una grande battaglia di libertà. Amico qui, Parenzo, sì, lo so chi c'è accanto a te, mio. Lo so chi c'è accanto a te. Amico mio. Però devi aspettare un attimo, Qui bisogna fare una grande battaglia di libertà. Una grandissima battaglia di libertà. La battaglia di libertà è per la signora De Mari, la endoscopista, medico, che è stata indagata per incitamento all'odio razziale e per altri reati. Ottimo. Ma come ottimo? Dai, come ottimo? Ma uno non può dire quelle cose sugli omosessuali, dai, su. Le può dire, ma si apre un piccolo fascicolino di inchiesta. Ma se tu sei fissato con i fascicolini, sei malato di fascicoli. Ti piacciono i fascicolini che si aprono? Quando uno apre un fascicolino, ti piace? Fascicolino. Dai, mi piace moltissimo, mi fa godere da morire. Tutti ecciti con YouPorn, io mi eccito quando aprono dei piccoli fascicolini. Ma no, ma dai, ma la signora De Mari dice delle cose, quello che pensa, per me delle cose assurde sugli omosessuali. Signora De Mari può... Ma incitamento all'odio razziale, incitamento alla violenza, incitamento alla non so un cosa. Giudice dai, su. Un giudice ha visto in questo e si apre un piccolo fascicolo. Ma si ragazzi, su, ma è un attacco veramente vergognoso alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero. Un attacco, io non lo dico seriamente, non sto scherzando, ragazzi. Silvana De Mari deve diventare un grande simbolo di libertà. Anche se dice delle cose estreme, le deve poter dire. Quello che dice sugli omosessuali va combattuto, va affrontato. Affrontato con la dialettica, va affrontato con la parola, ma non nei tribunali. Vergogna, vergogna. Chi vuole far tacere la dottoressa De Mari, che devo dire la verità, ha detto delle cose un po' pesanti negli ultimi giorni. Sì. Per esempio, senti: prima inenarrabile fesseria, la omosessualità, loro chiamano omosessualità questo termine delirante, è naturale. L'omosessualità non esiste, la sessualità è un modo della biologia per formare la generazione successiva mischiando maschile e femminile, traduzione papà e mamma, andiamo sul facile, così capiscono tutti. E per quanto riguarda la naturalità, ma che cosa volete che gliene strafotta madre natura? Di un demente che va a cacciare il suo pene nella cavità anorettale di un altro uomo e di un altro demente che se lo fa fare. Gli omosessuali sono due dementi. amici miei, ma altro che fascicolino. Senti quest'altro. Ma non c'è niente da sentire, fascicolino. Senti, ma che fascicolino, dai, su. Fascicolino di chiesa. Monumento bisognerebbe fare per la dialettica, per il coraggio delle sue idee sbagliate. Ma bisogna avere il coraggio anche di idee sbagliate. Ha dato dei dementi agli omosessuali. Quindi ci vuole Voltaire è un esempio demente. Vatti a leggere sul vocabolario cosa significa demente. Voltaire, ti lascio dire tutto quello che dice anche se sono contrario. Non difendeva il diritto all'offesa, Voltaire, ma che offesa, lo capisci o no? Ma smettetela con queste cose, dai. Chiunque vada a cacciare l'uretra in mezzo ai batteri fecali di un altro, così da cuccarsi la prostatite, non sta facendo una cosa in funzione della propria sopravvivenza. Chiunque permetta a un altro uomo di sfondargli le fibre dello sfintere interno e causargli danni alla mucosa rettale, sta facendo una cosa, francamente, al di fuori della mente logica. Poi magari ha 120 di quoziente intellettivo, ha vinto il Nobel per la fisica, ma la mente del corpo non sta più funzionando. A parte che io non capisco, ognuno sarà libero di fare quello che vuole nella vita. Se uno anche come dice la signora De Mari, uno potrà essere libero, infatti sto contestando adesso, potrà essere libero di farsi del male? Sì, uno deve essere libero di farsi del male. Allora, andiamo sulla vicenda ancora del ristoratore di Lodi, ragazzi, perché ovviamente se ne parla dappertutto con grandi scontri. Per esempio è intervenuta anche la signora Lori del Santo. Amico mio, la signora Lori del Santo. Del Santo è un'attrice, lo sto spiegando, it's an actor. È una donna, actress. È un'attrice italiana. Signora Lori del Santo. Chi ruba deve essere decapitato. La signora Lori del Santo. Io purtroppo sono così buona che non riesco a uccidere una formica, ma giuro che dentro di me penso che ci dovrebbe essere non l'ergastolo per chi commette questi delitti, dovrebbero andare senza essere giudicati da un giudice, se sono stati ripresi da una telecamera e la prova è inconfutabile, dovrebbero essere decapitati. Pena di morte. Scontro tra Cecchi Paone e Sicignano. Te lo ricordi il mio amico Sicignano, quello che sparò a un ladro e lo ammazzò? Pensionato di Vaprio d'Adda, mitologico. Ciao Francesco, ti abbraccio fortissimo, tanto tempo che non ci sentiamo. Diventano pupari da talk show questi qui. Ma voi, che pupari, andiamo, Cecchi Paone contro Sicignano. Show, andiamo un po', Cecchi Paone, che a un certo punto viene chiamato Checca Pavone, o no, Cecchi Pavone, anzi no, da scusa, c'è da Sicignano, Cecchi Pavone, non Checca Pavone, Cecchi Pavone. Mamma, senti. Mamma. Che livello. Senta, stia calmo. Lei ha ammazzato un uomo, quindi non si permette di giudicarmi, ok? Ma guardi, lei ha ammazzato un uomo, quindi non si permetta. Se lei si trova a letto col marito, con la moglie, lei, e qualcheduno entra in casa, mi ci sono trovato, voglio vedere cosa fa. Mi ci sono trovato, ma non ho le armi e non le ho prese dopo. Ma la mia libera scelta, non mi può giudicare. Punto e basta. Lei ha ammazzato un uomo, non e mi può giudicare. Mi sono difeso. Faccia se quello non che veniva vuole. A casa mia, ma lei non ha ammazzato moriva. Un uomo e non ammazzerò mai un uomo. Non... Quando starà male, perché le persone per bene, dopo che ammazzano un certo uomo, vale sarà male. Guardi che sarò il solo a andare da lui. Non ci saranno né fiaccolate né uomini politici per lucrare voti su questa tragedia. Perché se non avete le armi, non le usate, non dovete averle. La legge la faccia a destra, a sinistra, non me ne frega un cazzo. Se ma non le usate e ammazzate. Ma lei forse ha qualche neurone che è partito fuori. Io sono un cristiano liberale e io non ammazzo nessuno per nessuna ragione. Guardi che chi crede nei valori, crede nei valori che la vita è sacra, non la perché tocca. Perché quella delle vittime non è sacra, ma lei che cacchio sta dicendo? Ma cosa c'entra? Ma come cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Quale vittima? Lei qua è vivo, quale vittima? Ma che cazzo, ci mancherebbe che venivo qua da voi? Lei non ma è la vittima, lei è vivo. Ma non dica cosa. Lei è il mio ammazzato un uomo. Lei ha ammazzato un uomo. Stia zitto. Lei ha ammazzato un uomo. No, stia zitto. Come cristiano. Non riesco a capire perché Cecchi Paone dice e lei deve stare zitto perché ha ammazzato un uomo. È impazzito, non ho capito. Ma è completamente. È diventato pazzo Cecchi Paone. Cioè, è veramente diventato matto. Cioè, uno perché ha ammazzato un uomo per difendersi deve stare zitto. Sì, non è che diventa una. Ma non è che diventa. No, zitto no, ma non è che diventa una star. Ma che star? È invitato in un talk show e parla. È invitato in un talk show e parla della sua esperienza e ha la sua opinione. È normale che sia così. Marcato, Lega, oggi senza il ladro è un giorno migliore. Vai. Oggi senza il signor ladro il mondo è un mondo migliore. Allora, accanto a Parenzo c'è un signore, ecco. C'è un signore che è un a Strasburgo, che è un parlamentare polacco, sì. Un parlamentare polacco che si chiama di cognome Micke. Signor Corvin. Di cognome. Corvin Micke. Buonasera, Corvin signor Micke. Corvin Micke. Buonasera, signore, buonasera a tutti gli uomini nell'Italia. Come uomini sono donne. Uomini e donne, anche le donne, naturalmente. Come anche? Soprattutto le donne. Soprattutto le donne, d'accordo, soprattutto allora, le donne. Il signor Micke, nei mesi scorsi, ecco, nelle scorse settimane, ha detto una frase. Le donne devono essere pagate di meno perché sono meno intelligenti, più piccole e meno intelligenti. Giusto, signor Micke? Io lo sono pagano del meno perché sono meno intelligente. Oh, ma è vero o no? Giordano sono... Bruno, ho detto, eppure si muove, questo è il banale. Io ho letto nella scuola... Cioè che le donne sono meno intelligenti. Naturalmente. Come naturalmente? C'è il banale. È banale. What you says? Gioca a scacchi con le donne, tu vedrà. Come? Cioè, lei dice che con le donne. Non c'è una donna brava a giocare a scacchi, dice. Cioè, non è... the women are unfit. Le donne non sono brave a giocare a scacchi. Unfit, no, le donne. No. Sono quelche donne, ma sono una per cento uomo. Ma come? Lei non chiede scusa? Non si scusa per quello che ha detto lei? Do you say sorry? Why you don't say sorry? Say sorry. Why? Questo la... La verità non si libera. Dice che questa qua è la verità, in ragazzi. In questo io volo, sono libero. È un uomo libero e dice che secondo lui le donne sono meno intelligenti. Ha preso una bella multa di un mese di stipendio. Il mio legge. Questa è mia legge. È la sua legge. Fermi tutti che c'è la pubblicità. Conferma di parlare tutto. La verità. Di dire la verità, giusto. Dunque, di conferma tutto il signor Micke. Tutti i testi matematici, per esempio. Che dicono? Sì, la differenza è grande differenza. Uomo-donna. Uomo e donne. Cioè le donne sono meno intelligenti. Le donne sono meno intelligenti. Sì, perfetto. Allora, fermi tutti, naturalmente, sempre naturalmente. Traffico. Levate il vino. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presento La Zanzara. Io so che cosa fai, stringo il portafoglio. Allora ragazzi, succedono delle cose incredibili oggi. In collegamento insieme a Parenzo da Strasburgo c'è un deputato polacco che oggi è stato sanzionato, il signor Micke, che è stato sanzionato con un mese di perdita di stipendio, ma non gliene frega assolutamente nulla, mi sembra. 9.000 euro persi. 9.000 euro, sì. Ma le donne valgono 9.000 euro? Questa roba che questa stronzata, diciamo chiaramente, questa cosa che lei ha detto, no? Contro le donne. Le è costata No. Cioè non è contro le donne. È la verità, lui dice la verità. Normale donna, ma di che la intelligenza è come fat. Come la pancia, grassa. Sì. Donna intelligente, they don't like to disclose they are intelligent. Ma esistono donne intelligenti? Perché i uomini non amano donne intelligenti, naturalmente. Aspetta, che c'è un signore polacco. Naturalmente, le donne Conosco questo. Aspetta, che c'è questo, un polacco. C'è un polacco che si è offerto come traduttore. Chi è? Pronto? Pronto? Buonasera. Sì. Lei è polacco? Eccoci. Lei è polacco? Sì. Sì, parli in polacco col signore, parli in polacco col signore. Ottimo, ottimo. Vai. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem Dawid. Zaoferowałem tłumaczenie. Che ha detto? Che ha detto? Che ha detto? Qui siamo in polacco, che ha detto? To proszę, proszę, proszę, proszę powiedzieć, że mądre kobiety, bo kobiety są mądrzejsze od mężczyzn. Kobiety są mądrzejsze od mężczyzn, są mniej inteligentne, ale są mądrzejsze. I one wiedzą, że mężczyźni nie lubią kobiet inteligentnych, dlatego udają, że nie są inteligentne, naturalnie. Tak samo jak nie pokazują, że są tłuste, tak samo nie pokazują, że są inteligentne. Italiana questa, però. Fermo, polacco, dimmi, polacco, dimmi, che ha detto? Allora, sta dicendo che le donne intelligenti sanno benissimo che un uomo non può accettare una donna più intelligente di lui. Allora fanno finta di essere stupide. Vabbè, questo, ma questo è normale. Vabbè, ma lui ha anche detto prima che sono paraculata, si dice da noi, chiedigli prima. Allora, lui conferma che le donne sono pagate di meno perché sono meno intelligenti? Pyta się, czy może pan potwierdzić, że kobiety są mają niższą wypłatę, dlatego że nie są tak inteligentne jak mężczyźni. Ale również dlatego, że są słabsze, niższe, mniej agresywne, mniej odważne. Na przykład nie jeżdżą w Formule F1, nie dlatego mniej zarabiają. Gdyby jeździły w F1, to by zarabiały. Sta dicendo che non sono così forti come uomini, non guidano neanche le macchine di Formula 1 e questo è evidente che guadagnano ma come vuol dire? Scusami, faccio notare un particolare, il signor Corvin qui ha dei gemelli che sono con le cose delle pistole, con le pallottole delle pistole. Scusa, ma secondo lui, ma come sì? Secondo lui si può sparare a un ladro se un ladro, se un ladro entra dentro a casa sua, spara lui? Spara o no? Io sono un pistolero. Lei è un pistolero? Io ho un pistoletto, sì, naturalmente. Naturalmente. Naturalmente. Ma spara, se entra un ladro dentro casa sua, spara lei, spara. Boom, boom, boom, boom, spara o no? Se entra un ladro... se entra un ladro a casa sua, lei gli spara. Se si spara? Spara, spara. Boom, boom, kill. Shoot. Shoot. Yes, I'm shooting, of course. Come of course? Of course I'm shooting. Naturalmente, dice. Certo, naturalmente. Senti, la democrazia tutta è stupida. Tutta settimana io sparo. Tutta la settimana lui spara. Tutta la settimana, certo. È vero che gli immigrati sono spazzatura? Poi, polacco, traduci questa cosa. Lui ha detto una volta agli immigrati... Ci vedo pana emigranti sono sciuciani. Nie, nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że wszyscy, którzy żyją w zasiłku socjalnym, to są śmiecie. Ha detto? Non ha detto una cosa. Ale tak powiedziałem, śmiecie, to jest, nie wiem, jakie jest tłumaczenie. Lui ha detto che tutti quelli che vivono alle spese dello Stato con i soldi che prendono di sostegno sono la spazzatura. Ah, ok, beh, è uguale, cioè, praticamente. Tutta l'America, America era costruita per gli immigranti, ma questi immigranti hanno lavorato, non hanno gli sposi. Ah, ho capito, perfetto. Musulmani, cosa pensa lei? I musulmani, Muslim. You like Muslim? I don't care whether one is Muslim or not. Come? No. Non si preoccupa, non gli interessa. No. Amico polacco, traduci, gli piacciono i musulmani o no? I musulmani che vengono in Europa, chiediglielo. Lui dice che per lui è indifferente se uno è musulmano o no, se vive alle spese dello Stato, per lui è spazzatura, poi se è bianco o nero. Ok, perfetto. Chiedigli se ha detto chiedigli se Hitler una volta ha detto che Hitler non sapeva dell'Olocausto, se lo conferma. Pyta się, czy to prawda, że pan powiedział, że Hitler nic nie wiedział o Holokauście? Nie, powiedziałem, że nie ma na to dowodu. Jeżeli pan ma dowód, to jest nagroda 150 tysięcy funtów brytyjskich. Jeżeli ktoś ma dowód, niech przyniesie, pokaże dowód. Nie ma dowodu, że Holokaust istniał? O tym pan mówi? Jeżeli ktoś ma dowód, że Hitler wiedział o Holokauście, to niech leci do Anglii, bo tam jest nagroda 150 tysięcy funtów. Traduzione, vai. Ok, sta dicendo che non esistono le prove che lui era al corrente della esistenza dell'Olocausto. Ma come, non l'ha ordinato lui? Se esiste qualcuno che può provare tale fatto, c'è un premio 100.000 sterline in Inghilterra che può vincere qualcuno che porta le prove. Auschwitz c'è stato! Auschwitz! am Jewish. Yes. Ma but... no, yes, un cazzo. I am Jewish. Auschwitz. So what is the problem? So what is the problem? Auschwitz. But. Ma you know what is? Ma cacciatelo via. Io non. Ma io questo lo mando via. Ja im poem po mam się tłumaczyć. Otóż Hitler nie wiedział nawet, i to są dowody, że ma trzy dywizje Ukraińców, Kazachów i tak dalej. Kadeto. Sta dicendo che non solo non sapeva niente dell'Olocausto, ma anche dei problemi con altre nazioni. Ma scusa, è stato un buon statista. Dilli se è stato un buon statista Hitler. Chiedi, veloce, veloce, rapido. È stato un buono statista o no? Vai, rapido. Pytacie, czy według pana Hitler był ważną osobą w historii? Ma come non sa? Hitler ha fatto la soluzione finale. Che ha detto? Che ha Hitler, detto? C'è, la soluzione finale. C'è possibile e molto probabile che il non so perché il ma come leader, non sapeva? L'ha pianificato? No. Ma no, un cazzo. Fermi tutti, dobbiamo chiudere. Viva la Polonia, Hitler viva non era nell'office. Non era nell'office. Nunca, mai. Era nell'office? Sono basito io. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. La Zanzara. Oh, porco maiale, ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Dio. Disgraziato, Dio. Tanto ciao. Cruciani, sono un medico. Stavo andando all'ambulatorio dove faccio libera professione con la radiolina, ascoltando la Zanzara senza cuffie. Mi si affianca una vecchiettina dicendo... E lei dovrebbe essere il cardiologo che fra poco mi visita, ascoltando queste oscenità, e se n'è andata. Cruciani, mi devi 127 euro, ma siamo al top. Oh, Zanze, ieri bellissimo, sono andato a Milano da disoccupato alla Conte Mascetti, classica visita allo psicologo, poi dal medium, poi dalla curatrice della mostra, poi entro stremato in un taxi per tornare a casa e sento il tassista, cara di accesa, con la Zanzara e la tiene bassa, dico guarda che io ci godo, e lui la alza e ci ride, e l'ho detto ora sì che siamo al top. Allora ragazzi, grande serata qui alla Zanzara. Prima abbiamo avuto un parlamentare polacco, il signor Mick, il quale ne ha detti tutti i colori contro le donne, ha detto addirittura pazzesco, incredibilmente che Hitler non sapeva dell'Olocausto, probabilmente si beccherà un'altra multa. Cacciato. È stato multato dal Parlamento Europeo, ma noi non ce ne frega niente di queste quisquilie, di questi sono tipi umani straordinari. Io prima di presentare un altro signore che tu devi abbracciare, che devi abbracciare fortissimo, perché l'uomo che sta distruggendo l'Europa e io godo, The man who destroyed Europe, Nigel Farage. Buonasera, good night, how are you? Cruciani, I'm well. Cruciani says that I must kiss you. But kiss me? No, I don't want to kiss you. Oh, the English aren't like that. You are not homosexual? I love you. I'm afraid not. Really love you. Mr. Farage. Am I banned from this program? Mr. Farage, I love you. Thank you. I love you. Because you are destroying Europe. You are destroying Europe. I've made a start. I've knocked a couple of bricks out the bottom of the wall. But don't worry, the rest will come tumbling down. Lui ancora no, repeat please, because he's English, he's like Renzi's English. So what I'm saying is I've managed to knock out the bottom two bricks in the wall marked European Union. They've gone, and I'm hoping the rest of it will just come tumbling down. Dai, traduci, vai, traduci. Conte, qualcuno che traduce, dai. Conte, la Manuela Conte. Dai, ha dato un colpo nel muro dell'Unione Europea e il resto aspetta che venga giù. Metaforica. Bello. Sta distruggendo tutto. Bello. Allora, tutto. Signor Farage, why you are here? Why you are here not in London now? You don't stay here because this is not your house, this parliament. Oh no, there's real fun to be had here. Oh, just you wait. This is going to be the most amazing pantomime performance over the next 2 years. Because do you know something? At the end of the two-year negotiation, this Parliament could veto the whole Brexit deal. So I've got to be here to keep them on their toes. Che succede? In di questi due anni potrebbe succedere che il Parlamento metta un veto sull'uscita della Gran Bretagna e lui vuole stare qui perché tra due anni lui sarà qui, perché il processo di uscita durerà due anni adesso. Va bene, allora abbiamo il collegamento, aspetta, fermo qua. Abbiamo il collegamento Mario Platero, ciao Mario! Eccoci Giuseppe, eccoci qui, pronto per la traduzione, pronto. Allora, da New York è sotto la neve, voglio dire. Sotto la neve, bravo. Allora, caro Farage, come giudica lei Grillo? Vai con la domanda, Mario, vai. Sì, ok. So, dear Farage, how do you judge Grillo, Beppe Grillo? I like him, he's great, he's got big personality. Non sento niente. He's got big nulla. Ideas. And you know what? He's stuffing the establishment. Great stuff. Che dice? Che dice? Una grande personalità, un grande uomo, eccetera, eccetera? No, dice, mi piace, perché il problema è che non sento bene Mr. Farage. Dovete farmi un collegamento, ragazzi. Sì, adesso facciamo collegamento. Ah, lo sente basso, sente basso. Senti, il governo italiano, l'audio. Italian government, è schiavo dell'Europa? Digli un po', schiavo dell'Europa, chiediti. So, is the Italian government... slave of Europe, is that what you think? Is the what? The Italian government is the... Slave of Europe, schiavo dell'Europa? A slave! Oh, yeah, I mean, I thought the best thing that happened in Italy was when you had an appointed Prime Minister, Mr. Monti, was picked from the heavens. It's great, Monti. Very good person, Monti. È stato preso dal cielo. Goldman Sachs, the Euro, unelected, he's a dreadful man. You know, and I mean, Italy couldn't sink any lower, could it? There's a coup d'etat from Brussels. Mm. Berlusconi gets removed and Monti gets appointed. I mean, how humiliated can Italians become until they wake up to what's going on? Cioè, Monti ha umiliato l'Italia, praticamente. No, lui sta dicendo che a un certo punto c'è stato un colpo di Stato, perché dimesso improvvisamente Berlusconi al suo posto, è stato installato, piovuto dal cielo. Mario Monti, e dunque questo è stato poi il risultato. Un'umiliazione. Così, ma la traduci come quello che ha detto, non come ti pare, cioè, non perché sei contro Farage, caro Mario. No, allora, ha umiliato, no, Farage, ha umiliato l'Italia. Farage, can you hear me, Mr. Farage? Can you hear me? I can. Hello? You can? No, because we did meet at the Republican Convention. John Micklethwaite, you remember, the former editor of The Economist, was there. And we did meet over there, and you were there with Trump. So how do you think Trump is doing at this point? I mean, he seems to be having a bit of a hard time. Trump. Che cosa sta facendo Trump? Top man. He is doing brilliantly. Brilliantly. Oh, bene. Do you know Gentiloni? Gentiloni. Mr. Gentiloni tomorrow. No, Prime Minister, I don't. He's coming here tomorrow. He's coming here tomorrow. Have to say, doesn't sound that exciting to me. Non è molto. Che ha detto che non è molto eccitante. Non lo è. Ma eccita, dice come... che non gli sembra eccitante. But you know, Mr. Farage, we needed someone subdued. After lots of excitement we had before. The name of the state of Italy. Well, ragazzi, non vi sovrapponete, fermi, faccio io le domande. Qual è il politico italiano che lei stima di più, signor Farage? Qual è il politico italiano che lei stima di più? Vai. Okay, who's the politician you like the most in Italy? Well, it's got to be Mr. Grillo, hasn't it? I like Mr. Grillo. I think what he's doing, he's shaking up Italian politics and he's getting people involved. They can vote, they can make decisions on things. I think actually Grillo I think he's a revolutionary. Grillo scuote il paese, è un rivoluzionario. Salvini doing a very good job. He's leading the Northern League very well. Allora, dunque, dovrebbero fare un'alleanza Grillo e Salvini per governare l'Italia. Vai, Mario, vai. So would you see an alliance between Salvini and Grillo to make some kind of coalition to govern Italy? I think that if Italy stays part of the Euro, Italy will be destroyed. Sarà distrutta se farà parte. L'Italia ci sarà distrutta. Beh, and peggio I mi hope sento. That after the next election, that people like Grillo and Salvini, whatever their differences, they agree about what the Euro is doing to Italy. And I hope and pray they put aside any other differences and they come together and get you guys a referendum. a referendum on whether you stay part of the euro. Impossible referendum in Italy. Bene, ottimo. Dunque, you like... Aspetta, ragazzi. Dunque, lei vuole un'alleanza per il prossimo governo tra Grillo e la Lega, giusto? Esatto. Questo ha detto, sì. An alliance between those two, an alliance actually between any MPs that get elected that want to give the Italian people a say on whether you stay part of the euro. Because that issue is going to determine whether in 20 years' time you are a comfortable, wealthy country or whether you slide effectively towards Greece and the others. Vai, it's Mario, traduzione, Mario, vai. Mario, non c'è, vabbè. Ecco, sì, era caduta la linea, ecco, adesso è tornata. Hai sentito? Dice no, nei prossimi vent'anni, nei prossimi vent'anni si determinerà se l'Italia resterà un paese che è in grado di, insomma, di star bene, di essere prospero o no. E quindi siamo davanti a un bivio molto importante. E in tutto questo c'è l'equazione dell'euro che, come avete sentito, lui non lo vede con favore. Bene, allora, Farage, caro Farage, lei deve dare 1 milione di euro all'Unione Europea. Secondo lei è una follia oppure gli darà questi soldi? Vai. You have to give €1 million to the European Union. Will you give it to them? €1 million? Listen, we're giving £30 million every single day to a club whose accounts have not been signed off by the auditors for 20 years. I don't want to give money, I want to get money. I want to be given €1 million. No, well, you're getting lots of money back. You do get money back. I mean, what about the farmers in Ireland and England? I mean, they do get lots of money back. Bisogna tradurre in italiano, Mario, non siamo nella lingua inglese. Ecco, no, dicevo che ci sono i farmer che prendono un sacco di soldi indietro. To the European Union, a whole load of it goes to the mafia. Some of the rest of it gets lost. We get 50p back, and we give it to the Queen and the aristocracy in England who own lots of land. Great deal. Vai, Mario. Vai, let me translate. So allora dice sì, dice ci sono tutti questi soldi che arrivano. Ce la metà vanno alla mafia. L'altro quarto va a pagare vari conti che si devono pagare di rappresentanza e poi il resto va alla regina per le sue spese di rappresentanza. A noi ci restano 50 cents, che non però, è vero, ma è vero o no che lui ha fatto lavorare la moglie, che deve dare questo €1 million all'Unione Europea? Cioè, lo vuole dare oppure è l'Unione Europea che deve dare i soldi? Questo è il punto. Exactly. So hold on, Mr. Farage, because the million euro, it's related to your personal money because your wife was working. You had your wife working, so they gave you a fine, and you have to pay a fine. Lei deve pagare una multa. Oh no, non pagherò. No, we're an English word for that. Bulls, we say bulls, and there are ruder ways of saying it. Bulls, just not true. Sorry, nice try. Tutte balle. Allora, caro Farage, ti saluto, un abbraccio. Viva fuori dall'euro l'Italia. Farage. Diglielo, Italia fuori dall'euro. Dillo, Farage. Italia fuori dall'euro. Vai. Italy must leave the euro. Italy must be free, and Italy will be wealthy and happy again. You must do it. You've got to destroy the European project. Come and join me. I'm the first. I'm on the Brexit bus. Come and join us. Andatevene a fanculo tutti quanti. Ciao. E adesso la voce. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. :31 del mattino, via Salaria a Roma. Susanna c'è. Tutti in piedi sul divano, Susanna c'è. Sto sentendo che la puttana che gli volete fa la colletta. Milano ha fatto un sacco di soldi. Gli era partita la testa perché è piena di soldi. Io anche ieri sera ormai alla frittata, la seconda settimana della mia nonna. Cruciani, aiuta chi c'ha bisogno. Noste troie che so gonfie dei soldi e impagano un euro di tasse. Vergogna. Ma visto che avete fatto o volete fare una colletta per la prostituta multata, se io dovessi mai prendere una multa con il camion, me la fate una colletta? Chicco! Giovanni da Palermo, adesso ragazzi, a tutta birra con gli ascoltatori, microfoni aperti, ragazzi, Farage numero uno. Io lo vorrei leader dell'Italia, signor Farage. Io lo vorrei leader dell'Italia, signor Farage. Immaginavo. Ma quando uno gli ha chiesto, scusi, sì, lei deve un milione di euro in Europa, ma sono loro che ci devono i soldi a noi. Ma come ne frega un cazzo a me? Pazzesco, dai, però, scusa. Ha ragione, lui, ha ragione il signor Farage. Ma sai che saremo in diretta? Saremo in diretta sulla NBC per il suo programma che fa ogni sera la radio. Domani sera la Zanzara sarà nel programma di Farage, capito? Una cosa pazzesca. Ma ragazzi, dai. Allora, Giovanni da Palermo, vai Giovanni, vai, vai. Ciao Giuseppe, ti volevo ricordare che oggi è la giornata mondiale del sesso orale. Sì, è vero, giornata mondiale del sesso orale, qualcuno me l'ha detto. Distratto. Oh, sì, però la giornata mondiale, ragazzi, i pompini sono una delle cose per cui vale la pena campare, per cui vale la pena vivere, diciamo la verità. Senza le pompe uno non potrebbe vivere, diciamola tutta la verità. Parenzo, diciamo tutta la verità. Ma tu potresti vivere senza pompini? No, potremmo vivere senza la Confindustria, per esempio, si può vivere. Ma cosa, che pazzo sei tu? Senza Radio 24, al limite non si può vivere. Perché no. No, senza pompini, non si può, anche a 80 anni, avresti... sì, ma ho capito, a 80 anni senza pompini non si potrebbe vivere. A un certo punto uno si riduce a quello, andando avanti nella vita, l'unica cosa che puoi fare è quella roba lì. Ma no, ma è normale che ragazzi, è una delle poche cose per cui vale la pena campare, il pompino. E giustamente, signor Giovanni da Palermo. Ma non. Assolutamente sì, signor Giovanni da Palermo ci ricorda questa cosa molto semplice, essenziale, determinante, che oggi è la giornata mondiale del sesso orale, giusto Giovanni? Senza l'amore non si può vivere, senza l'amore, sì, ragazzi, però l'amore se l'hai provato senza senza quello stranguglio che hai alla pancia, no? Quando senti le farfalle nella pancia perché ti piace una persona, perché ne sei. Sì, le farfalle nella pancia. Esatto, le farfalle nella pancia. No, le farfalle nella pancia, quella sensazione a 15 anni. Le farfalle nella pancia, certo. Le farfalle nella pancia. Quella sensazione assoluta di amore totale che non puoi vivere senza l'altra persona, che comunque la devi sentire, la devi vedere il suo sguardo, la tua vita per lei per te, no? Queste robe che sì, per carità, anche quelle che hai evocato poco fa sono. No, ma Giovanni, dice, ma scusa, perché tu ti sei ricordato di questa cosa qua della giornata mondiale del sesso orale, Giovanni? Perché te lo sei ricordato? Semplicemente perché volevo invitare tutti coloro che hanno il grilletto facile. Che vuol dire? Ah, grilletto facile, dici quelli che sparano che ai ladri. Che vogliono sparare, sì, che stasera si fanno fare un bel boccaglio dalla propria donna anziché pensare di sparare anche un ragazzino che durante la notte può entrare allora? Nella tua proprietà e gli spari. Ma non esiste, Giuseppe, non te lo puoi tenere sulla coscienza un ragazzino che entra nella tua proprietà per rubarti due mele e lo spari. Ma che vuol dire? A me che ne so che è un ragazzino, che è un adulto, c'è un principio essenziale, Giovanni, c'è un principio essenziale da cui non si può derogare per difendere i tuoi beni, la tua vita, la tua famiglia, le tue donne, le tue amanti, quello che è. Però che c'è un ragazzino che ti entra in casa, che fa? Pazienza, magari, ma è pieno di ragazzini che sono dei criminali, ma di che parli? Io non ho dei più grandi rammarici che ho ragazzi nella mia vita, in questa trasmissione spesso siamo anche controcorrente, non siamo dalla parte della maggioranza abbiamo anche delle posizioni, almeno io, diciamo un po' diverse rispetto a quella della maggioranza della gente. Sono invece contento che in questi giorni il 90% degli italiani, perché sono sicuro il 90% degli italiani è dalla parte di quello che dico io, il fatto che dentro casa tu sei sempre dalla parte del mainstream contro gli immigrati. Oggi il vero politicamente corretto oggi è quello di è il tuo. Tu sei politicamente corretto, perché oggi è politicamente scorretto quello che faccio io, cioè difendere gli immigrati, difendere il diritto di queste persone ad avere. Il PD voleva fare anche la manifestazione per i migranti, volevano fare la manifestazione per i migranti. Ma che voce fai? Bruno da Catanzaro, Catanzaro, dai Bruno, vai. Pronto? Sì, eccolo, Bruno, dimmi. Pronto. Bruno? Niente, vai. Antonio, provincia di Brindisi, vai. Sì, buonasera. Dimmi, Antonio. Vai. Allora, io vorrei esordire così. Sì. Quando entri in un tribunale c'è scritto nel nome del popolo italiano. Sì, vabbè. Il popolo italiano ha detto a sti bracconieri che... Quali sarebbero? Chi sarebbero i bracconieri? I bracconieri sono coloro che vanno a caccia di animali inermi durante la notte, di persone. Allora, se tu mi entri dentro casa, io ti ammazzo, se tu mi vuoi fare male. un conto è che ne entra uno, questi vanno a 3-4, a branco vanno, sì. Sono proprio dei bracconieri, non è giusto assolutamente. A me ma mi cosa non è quelli... giusto? È chiaro che non è giusto andare a rubare, vai oltre, cosa vuoi dire di altro? Voglio dire che non devono rompere le scatole, questi qua, se... cioè, a me non mi dispiace quando lo ammazzano, perché... cioè non provi nessuna pietà, non te ne frega nulla del romeno morto lì a coso, dai, a lode. No, questa... anche se poi quando fai queste cose ci stai peggio tu di quello che hai ammazzato, perché quello ormai se n'è andato, ha fatto anche la stronzata di venirti a rompere le scatole e ti rimane pure a te il problema... di sopravvivere con quell'angoscia. Sì, va bene. Quindi, Antonio, andiamo a Mantova. Ambrogio, ho capito perfettamente. Ambrogio, vai. Buonasera. Sì, sì. Allora, io sono vicino a quel signore lì che ha sparato e ha fatto benissimo, non sì. Bene, ma benissimo. Però volevo dire a questo tuo collega lì, Parenzo, sì, mio coglione, questo mio merda, coglione di merda, sì. Sì. Come dice, scusi, buonasera, un coglione di merda, sì. In casa sua. Sì. Buonasera e benvenuto alla radio. 4, buonasera. 5, buonasera. Sì. Sì. Vanno 4 5. Buonasera a lei. Di quei signori lì, sì. La inculano, sì. La pestano. Ma chi dovrebbe... Parenzo, parla di me, buonasera. Ah, la pesta a lei, da del sì. Lei, cioè dice ti devo inculare, pestano però me, dandoti sì. Del lei, te lo dice. Sì, sì, sì. Intanto le buonasera, inculano, buonasera, pestano, grazie. E poi? La pestano, sì. E lo buttano dalla finestra, perché è un bastardo così. Dalla finestra. Ma perché? Non che ha fatto? Esistere che ha fatto? In sì. Beh, intanto mondo. grazie per aver chiamato questa sera in diretta alla Zanzara. No, però scusa, Ambrogio, un contributo interessante. A Mantova, certo, ci sono dei... un coglione. Ma perché Ambrogio è un coglione? Spiegalo. A casa sua è tutto a posto, Ambrogio? Perché lui non solo la sua di questo, famiglia sta bene, che sì. Protegge, sì. Ma lascia stare la famiglia, ma tu deficiente. Ok, tu guarda bene. La tua, coglione. Grazie, buonasera e benvenuto. Ambrogio, buonasera, vai, allora, che stai dicendo? Non ho capito. Perché, no. Perché gli dai del coglione, eccetera? Perché ti speri che qualcuno entri di casa tua e lo incuri? Cioè, dammi una spiegazione. È impossibile, la deve provare sì. Lui, quello che ha provato quel signore lì prima. Cioè, quale signore? Quello che ha ammazzato quello di Lodi, cioè la paura, certo. Il terrore, dice, le deve provare, certo, la deve paura e il terrore. Quel bastardo lì, perché se non la prova è facile parlare dal dei. Parla sempre di me? Sì, di certo, 24. Sta parlando di te, non hai capito? Ma cioè. Solo di te, perché tu sei un pezzo di merda. Sì. Signor Ambrogio. Buonasera e benvenuto, grazie. Merda, grazie, signor Ambrogio. Un deficiente. Grazie, Ambrogio. Signor Ambrogio. Prego, prego. Sì. Lei ha avuto una vita felice, diciamo, no? Sì. No, purtroppo ho avuto dei problemi. No, che problemi? No, no, problemi capisce, no, infatti. Ma sono stato 30 anni nei campi di concentramento, sì. Coglione. 30. In che senso? 30 anni? Quanti quali anni nei campi di concentramento? Scusi? Quali campi? 30. Quali che è 30 anni nei campi di concentramento? Quali campi? 30, scusi. Nei campi dei comunisti albanesi, 30. E sono venuto in Italia nel 91. Ho capito. Solo perché ero italiano. Bastardo di solo merda. No, però scusami, Ambrogio. Ce l'ha sempre capito. Con me? Sì, no, sì. Ma questi epiteti sono sempre rivolti no, a me? Sono questi? Italiano, non albanese. E perché, come hai fatto a passare 30 anni dentro i campi perché in Albania? Perché mio papà è venuto lì a lavorare in Albania. Sì. Loro l'hanno arrestato, hanno incarnato noi sì. Per 30 anni. Nel 91, quando è caduto il comunismo, io ho potuto venire in Italia. Ho perso mio papà, ho perso tutti. Sì, vabbè, questo però e che questo c'entra con la... No, ma lui anche no, quelli io, difende. Diciamo, non c'entro nulla con questa sua... Chi difende? Ma chi difendo? Questo bastardo qua. Anche quelli ma quali, dipende, intanto buonasera. Vi seguo. Ma che intanto, sera, intanto ma buonasera e benvenuto. Ma tu l'educazione buonasera, grazie. Così, piacere Parenzo. Piacere vai, Parenzo. Coglione, piacere Parenzo. Ma tu, piacere tu, Parenzo. A me dispiace. Lei si chiama Coglione? Lei si chiama Coglione, ma il nome di battesimo qual è? Parenzo. Lei mi dice Coglione, io dico solo Parenzo. Com'è il suo nome di battesimo? Ah, quindi lei si chiama... Parenzo, ah, quindi lei si chiama Parenzo Coglione? Sì, Parenzo Bastardo. Lei si... lei si chiama Parenzo deficiente. Bastardo, lei? Il nome di battesimo è Parenzo? Ciao, ma quanti coglioni ha il deficiente coglione? Ciao, è un, no, è un nobile ciao. Lei. Arrivederci, imbecille. Ho letto una notizia prima, David, non so se sia vero sì, o no, sì. Tu sei stato mai in Thailandia? Era simpatico questo mentecatto, no, ma questo mentecatto che ha chiamato, no, era ma, anche simpatico no, sto adesso mentecatto. Perché devi dire mentecatto? Io non faccio mentecatto, no? Beh, perché sai, io lo dici mi ha vabbè, scagliato addosso in tre sì, minuti, non c'è dubbio, questa tre la cosa, minuti di... E questa è la cosa no, incredibile. Ora userò un'altra tecnica, no, un'altra tecnica. Perché la cosa incredibile... Che è quella di accarezzare il demente, non aggredirlo, d'ora in poi voglio accarezzare no, il demente, la cosa incredibile. Assecondarlo, sì. Mi ha scaricato no, addosso all'improvviso una granata, una mitragliata proprio a freddo di insulti che non posso neppure ricordare, che no, questo perché... qui è un demente, poverino. No, sì, dai, lo puoi ricordare, su, però lo puoi dire tranquillamente, però la cosa pazzesca sì, è che sembrava all'inizio così, sì, poi dice questo pezzo di merda, questo... Vabbè, gli animalisti vogliono far chiudere lo zoo di Bangkok, che organizza degli incontri di pugilato fra orangotanghi per far divertire i turisti. Io la trovo fantastica questa cosa. Incontri di pugilato fra orangotanghi. Perché vogliono interrompere questa cosa meravigliosa? Che sono in... Per esempio, una volta sono andato in Indonesia e ho assistito a diversi incontri tra galli. Cioè, beh, stupendo, scommesse, scommetto la vita di Dio. Ma morivano, no, cioè, tu ma non è muori. Cruento, dai, bro. Certo che è cruento, altrimenti che cazzo ci vai a fare se non è cruento? Sembri il polacco, sembri il polacco. Certamente, adesso tagliamo quella cosa. Naturalmente. Le donne sono inferiori, sono tutte delle puttane. Certamente. Allora, ragazzi... è una cosa pazzesca. No, c'è un problema, che questi orangotanghi sono intelligentissimi e hanno difficoltà a tenersi sempre in posizione eretta, e per allenarli vengono strappati giovanissimi alle madri, cioè vengono tolti alle madri giovanissimi e per essere allenati a tenersi su, perché altrimenti naturalmente gli scimpanzé e gli orangotanghi no, tendono un po' a gattonare, come si dice, no, come i ragazzini. Dunque vengono straordinari, cioè li vogliono educare. Gli animalisti dovrebbero essere a favore di queste cose qua, perché in realtà li vogliono trasformare in uomini, cioè li vogliono trasformare in uomini combattenti. Certo, sempre leggermente inferiori, perché inferiori sono, però vogliono tenerli in posizioni erette come gli uomini. Fantastico. Invece vogliono impedire questa cosa che è divina. La trovo divina questa cosa. Voglio andare a scommettere anch'io. La battaglia tra i galli in Indonesia era straordinaria. La battaglia tra i galli, si ammazzavano, tutta la gente che scommetteva. Ma è una cosa talmente cruenta. Scommettevano, ecco, i batti in Indonesia. Tutto come si chiamano? Batti. Ma è cruento, sì. È inutile, cruento, uno spettacolo cruento, no, è inutile, sei pazzo quando sostieni queste cose. Allora, Alberto da Milano, ragazzi, fra poco cercheremo di fare un'intervista all'host, al famoso oste di Lodi, poco dopo le 8, spero, poco dopo le 8, Alessio da Padova, vai, Alessio. Anzi, Alberto, sì, Milano, e poi... Chi c'è, Alessio o Alberto questo, chi è? Pronto? Chi c'è? Chi è che parla? Alessio, vai Alessio, dimmi. Amici miei, che figurone che avete fatto, sì? Tu non tanto, ma lui. Ma su che cosa, scusami? Sull'inviato speciale a Strasburgo. Ma che cosa? Qual è il problema? Mi lasci parlare, te lo dico. Dimmi, Alessio. L'inviato speciale del dottor Parento, sì? Che va di fare l'inviato speciale, non parla una parola di inglese. Ma qual è il tuo problema? Speciale, speciale, speciale. Ma lasciami parlare. Ma sono cazzi nostri se sappiamo l'inglese o no. Sono cazzi vostri. Sono cazzi nostri. Sì, sì, sì. Siamo come Totò e Peppino. Hai problemi? Hai problemi? Totò e Peppino, guarda. Hai problemi? Hai problemi? Ma non ho problemi. E allora, hai problemi? No, perché tu non fai parlare le persone. No, ma hai capito? Problemi che a dire non in sappiamo intervistare opinion, in inglese. Allora, you are an idiot. E qual è il tuo problema? No, io non vado a scuola. Faccio una cosa. So fare questo mestiere meglio di te, dunque non mi rompere i coglioni, imbecille. Però vai a parlare l'inglese, coglione. Ma non me ne frega niente a me di imparare l'inglese, capito? Tu che cosa sai fare nella vita? Cosa sai fare? Il mio lavoro. Cosa sai fare? Cosa? Che lavoro fai? Che lavoro fai? E chi se ne frega? Me ne fotto che sai parlare l'inglese meglio di me. Non vado a Strasburgo a fare l'inviato. Sono affari nostri, lo sappiamo fare meglio di te questa cosa qui. Se tu sapessi l'inglese, se tu andassi a Strasburgo col tuo inglese ti perderesti. Perché non sai un cazzo, capito? Non sai nulla, imbecille, non sai niente. È arrivato Alessio da Padova. Alessio, che razza di giornalisti siete? Ma vergognati, vergognati. Io mi vergogno, ma non sapete una parola di inglese? Ma non... aspetta, a parte che lo dici tu, che non sappiamo una parola di inglese, lo dici tu. In my opinion, se l'ha mandato via durante la pubblicità. Quando ce l'aveva a fianco gli leccava il culo. E allora durante la pubblicità l'ha mandato via. Ma che c'entra? È finito alle 8. È finito alle 8 un pezzo di trasmissione. Imbecille, non sai nulla. Non sai nulla. Ma chi lecchi il culo? Tu non sai nemmeno cosa significa leccare il culo. Intanto ha telefonato però. Intanto ascolta e telefona però. Non sa nemmeno che significa leccare il culo. E telefona. Ma tu non sai che significa. significa leccare il culo, allora questo è il punto. Per questo, no? Prima di fare giornalista. Ma chi l'ha detto? Allora le piace per questo, no? Sì. Non sai una parola d'inglese. Può darsi, può darsi. La trasmissione le piace per questo, Somaro. Sì, per questo ha telefonato. È rimasto all'ascolto perché le piace. Le piace. E chi l'ha detto che siamo perfetti? Ma ti sto dicendo, che siamo Totò e Peppino. Siamo perfetti. Siamo Totò e Peppino. Qual è il problema? Ho detto che mandare una persona a fare giornalismo. Ma sono affari suoi. Ma che ne sai che sta facendo lì? Che ne sai? Ignorante, non lo sai che sta facendo. Capra, non lo sai che sta facendo. Non lo sai. Lascialo, lascialo. Ma mi devi, pulire le scarpe. Tu mi devi pulire le scarpe. Mi devi passare le scarpe. Passami le scarpe, dai. Vieni a pulire le scarpe, dai. Ciao, ciao. Simpatico. Allora ragazzi, mi dicono che ieri sera a Quinta Colonna c'è uno splendido Rotondi che dice giusto pagare i parlamentari che non trovano più lavoro, è incredibile questa cosa di Rotondi, eh. Io amo Rotondi, adoro Rotondi, ve lo dico subito, adoro Rotondi e la sua difesa spada tratta dei parlamentari, del lavoro dei parlamentari, lo adoro, ho scritto pure una prefazione al suo libro contro la casta e mi ha fatto molto piacere, per carità, però signor Rotondi qualche volta esagera. Il mio libro sostiene... Lo dobbiamo pagare noi il fatto che loro non trovano più lavoro? Assolutamente sì, assolutamente sì. È impopolare. Ma non glielo ho chiesto io. Oggi ha visto... Ma tante vite sono state distrutte dall'esperienza parlamentare. Tanti professionisti sono... entrati in Parlamento e ne sono usciti senza avere più la dignità professionale che avevano prima. Poi si scontra con la piazza, dice che addirittura vuole querelare Quinta Colonna perché gli hanno dato del ladro senza che il conduttore lo difendesse, signor Rotondi. Senti come si scontra con la piazza, che vi dicono ladri, ladri, ladri. Ci ridete in faccia! Ma allora, che ragazzi, di questi persone qua siete? Dicono una cosa, imparate a vivere! Imparate a vivere, vergognosi, ladri! Sì, sì, aspetti un attimo, signor. Un momento. Beh, mi sembra che si stia eccedendo. A questo punto io ritengo di dovervi lasciare. Mi spiace, ma... Eccedendo di che? Non siamo venuti qui a fare le vostre marionette. Non siamo venuti qui a fare la spalla. Queste di una... sono marionette? No, questi in assolutamente piazza. Lo sai che ci sono 4 milioni e 700 mila poveri? No, lei non può consentire. Sì, però io mi stupisco di come si stupisca signor Rotondi, cioè ragazzi, ma lo diciamo da mesi prima della parodia di Crozza, l'abbiamo fatto noi, cioè è tutto organizzato in questo modo, c'è una piazza che dice al politico ladro, figlio di puttana, bastardo, stupratore, normale, pedofilo, normale. Tutto così, poi naturalmente, dice, me ne vado, ma che te ne vai, è fatto così, prima da Nacci, pensaci, no, caro Rotondi, dai, ancora. Non può consentire in trasmissione che la signora chiami ladri me e Razzi. E lei gli risponda. Non risponde la signora a me né io a lei, risponderà lei in tribunale. Chi? Lei la e la signora insieme. Lei che conduce e la signora che ci ha chiamato. Ah, perché lei le ha detto ladri, io rispondo in tribunale. Certamente, io. Certamente mi sembra che sia stata mandata in onda una ingiuria insostenibile. Non avevo sentito che aveva detto che era lei vuole un bilancio della sua trasmissione. Le faccio vedere tutte le minacce e le ingiurie che arrivano via Twitter. Ah, è perché è colpa mia. Non è colpa sua, ma è evidente. Ma stiamo scherzando? Ma Rotondi dice sul serio. È evidente. Allora, Alberto da Milano, vai ragazzi, però Rotondi si stupisce del nulla, cioè succede ogni ma, no, ma giustamente è organizzato in questo modo, se uno non vuole farsi dare del ladro, del pedofilo, del figlio di puttana da una piazza, non va lì, ma è normale, se vai lì ti aspetti che quello ti dica ladro, uno doveva affrontare la signora e dico ladra sarà lei, che cazzo fa nella vita quella signora in piazza, ha perso il lavoro, peggio per lei, ci sono, pure hai visto del debito, ci sono 4 milioni e 700 mila poveri, uno deve rispondere, allora che colpa c'ho io che sono 4 milioni, lui diceva sì perché sei un politico, è tutto fatto così, capito, ma non si deve stupire se uno va là, dai. Alberto da Milano, vai Alberto. Ciao Cruciani, mi senti? Dimmi. Allora, tanto per iniziare, volevo portare una storia di vita vissuta, reale. Cioè? Praticamente 20 anni fa uno zingaro ha fatto un furto nell'officina di mio padre. Sì. E l'ha travolto, l'ha ucciso sotto una macchina senza pensarne due. Questa è grossa, mi dai 2-3 minuti, poi torno da te Alberto, perché Alberto, il papà anni fa è stato ucciso da uno zingaro, da uno rom, con la macchina mentre faceva un furto. Sì. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità, pubblicità, è il top assoluto. La zanzara. Ah, che cagata! Sono qua che guardo lo stronzo nel cesso che sporge di 10 centimetri buoni e Cruciani ti somiglia. Anche l'odore mi sa che è lo stesso, eh? Vabbù, ciao Cruciani! Cruciani, non è che devi andare a domandare lavoro a Varin, a Radio Calabria! Tu che dicevi che Varin strisciava i tuoi piedi, invece va a finire che sei tu che strisci i piedi di Varin. Quando chiuderanno quella baracca dove ti trovi, dovrai strisciare a Radio Calabria a chiedere un tozzo di pane. Cruciani, vai a fanculo, vara. Sei un gran testa di cazzo, vara. Guarda, quei leghisti che fanno questa cosa alla Cecil King sono come te. Tu sei il capo banda di questi bastardi. Tu sei il primo bastardo. Ne approfitti sempre a insultare i neri, a insultare i muslim. Sei un bastardo dentro. Sei un cretino. Bastardo, razzista di merda. Adesso ormai sei pronto a fare il vice di Salvini alla Lega Nord. Che cazzo vuoi, bastardo che sei altro? Ma vai a fare il culo, bastardo che sei, Cruciani. Sei una razzista di merda, guarda. Sei una razzista, guarda. Sei una razzista di merda, sei. Bastardo che sei, Cruciani. Ma vado a far futuro, Cruciani, quando faccio l'amore con mio amoroso penso solo a te e a quanto mi daresti dentro. Ti amo. Beh, due opinioni differenti sul sottoscritto, caro David. Hai sentito prima la spada di fuoco, il signor Paco da Belluno, che mi ha dipinto con Paco, sì. Un insulti simili a quelli che ti ha detto l'altro ascoltatore. Pezzo di merda, razzista, sì, devi fare il vice di Salvini. Non ha detto delle cose totalmente fuori luogo, questo Paco, questa spada Paco, di fuoco, diciamo. La famosa spada di fuoco. Impacato Paco. Sì, Paco, tra l'altro... deve ricordarsi che io so il francese, dunque la frase finale sua va te faire foutre, l'ho capita benissimo, vai a farti fottere, sì, caro Paco. Chiara. Questa è abbastanza chiara, Chiara. Allora, eravamo con Alberto da Milano che ci stava raccontando la sua storia con i rom, con i zingari, suo padre qualche anno fa, che anno esattamente Alberto? Nel 95 è stato ucciso, racconta un po'. È stato ucciso da uno zingaro, praticamente gli ha fatto un furto nel camper che stava allestendo per andare in vacanza. Sì. E niente, questo qua gli ha rubato nel camper, l'hanno avvisato, mio padre si è posto davanti alla macchina per fermarlo, niente di meglio che inserire la prima e trascinarlo per 70-80 metri finché non l'ha ucciso, lasciato per strada, morto. È stato arrestato, comunque c'è stato un processo. Già fuori, naturalmente. Già fuori, immagino, no? Già fuori, perché sì, perché poi pensa un po', la stessa mia età, io avevo 26 anni, lui pari a me, e io andavo a lavorare come tutti noi d'altronde, mentre lui andava in giro a fare queste belle cose. Già si era comunque fatto notare in zona qua a Milano da queste parti, perché andava nei bar e faceva disastri, ristoranti e quant'altro, avevano comunque avuto già problemi, un recidivo, comunque una persona che tutto sommato era lì per fare un danno del genere. Sono persone che comunque ce l'hanno nell'indole, c'è poco da fare. Non dico io non ho capito una cosa, scusami Alberto, allora tuo padre è stato ucciso da questo ladro, da questo ladro zingaro, praticamente ladro zingaro. 21 anni fa. Quest'anno è il ventunesimo anno. Quanto ha fatto di galera questo qua? Probabilmente, allora, inizialmente era comunque ergastolo, poi perché hanno fatto il rito abbreviato, cosa che io comunque personalmente su determinati tipi di reati, no, una follia totale. Vabbè, comunque lasciamo perdere questo. Comunque fatto... 17 anni e non si sa bene se poi li ha fatti tutti, perché può darsi per buona condotta gli sconti e quant'altro. Lui è già in giro, sì, è già in giro. Cioè, lo hai rivisto in giro? No, no, non è, anzi, ma pensa, sai che è uscito dal carcere, però. Allora, non mi sono mai informato, non l'ho mai voluto sapere. Ma hai detto che ha detto che è libero, chi te l'ha detto? Mi sembra strano che per un reato gravissimo come questo e così. Ma perché non sarà stato omicidio volontario? Perché non sarà stato omicidio? No, come no? È stato omicidio volontario, e come? Certo. Allora se è stato condannato, come è giusto, ovviamente. Ha preso 17 anni, mi dice che ha preso 17 anni. E tu che è già fuori sicuro. Omicidio volontario è, ma è comunque non so, avrà fatto più della metà della pena, comunque. Questo è già uscito. È un criminale. Ma chi difende? Ma guarda, Giuseppe, è che io ero in macchina, dopo neanche una settimana che avevo visto lui e sua madre, a Piazza del Corvetto, mi ha attraversato col rosso, sua madre e sua sorella. Vabbè, ma al di là di questo, io voglio capire una cosa, tu ci stai raccontando questa cosa perché? Perché alla fine io personalmente, anche se mi è successa questa cosa, non nutro desiderio di uccidere qualcuno. Tanto Dio, prego soltanto il Signore che non mi capiti mai di trovarmi in una condizione del genere, di dover comunque affrontare un delinquente. Ma però se ce l'hai davanti, se ce l'avevi in grado di fare, io ho provato sulla mia pelle e questa gente non ha scrupoli. Io più che altro lo dico a Parenzo, che lui difende in generale, fa il buonista, voglio dire, però quando ti capita una cosa del genere, ma io non difendo i criminali. Ma lei sta scherzando, però. Ma ci mancherebbe altro. Ma è una tragedia infinita. Ma non l'ho mai difeso un criminale. Ma ci mancherebbe altro. Ma dopo tanti anni di crepacuore, anche lei per un brutto male mi è venuta a mancare. Quindi, scusami, Alberto, io voglio capire una cosa. Tu, se ce l'avessi di fronte, questo qua che è uscito dal carcere, questo che ha ammazzato. No, non voglio pensarci, non ti dico neanche quello che farei, perché non saprei neanche come reagire. Non so se in quel momento, dal nervoso, potrei mettermi a piangere, potrei attaccarmi al collo, non lo so. Non so cosa farei, ti giuro, non ci ho mai pensato. Dimmi un'altra cosa, questi quando vedi e senti storie come quella di Lodi, no? Cosa ti viene in mente? Appoggi totalmente questo signore qua che ha sparato, immagino. Ma dire che appoggio completamente questa persona qua che ha sparato, personalmente io non vorrei mai vivere con una vita intera con la coscienza, portare in coscienza di aver ucciso qualcuno. A me hanno dato una vita. Ma questo è normale, ma questo qua è legittimo, che certamente, ragazzi, però, ma non ti sto dicendo che è una cosa leggera sparare, chi l'ha detto? Se ti dico, se dovesse succedere a me che mi entrano in casa, mi minacciano e quant'altro, io posso difendermi, io sparerei, se avendo un'arma o qualcosa del genere mi difenderei. Sì. So cosa possono fare dall'esperienza vissuta, quindi chi si difende, io comunque in ogni caso non lo biasimo, perché ti uccidono. Va bene, ciao Alberto, ti abbraccio, ciao bello, ciao. Allora, mi sembra che ci siamo con l'appuntamento. Mario Cattaneo è l'oste, chiamiamolo ragazzi, è l'oste che ha ucciso qualche giorno fa un ladro nella sua abitazione. E credo che giovedì ci sarà, cioè domani, un interrogatorio, perché ci sono alcune discordanze, l'inchiesta è ancora aperta, è stato indagato per omicidio volontario dal magistrato, che però ha aggiunto fino all'unico reato accertato è quello di effrazione, cioè il fatto che il ladro sia entrato dove non poteva entrare. Chiamiamo ragazzi, vai! Pronto? Sono Cruciani, la Zanzara, buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Insomma. L'ecchimosi, il braccio, come va? Ancora così, ci vuole un po' di tempo. Quanto ha di prognosi, più o meno? Un mese e poi vediamo, ha detto, perché c'è una frattura, un ossicino sul gomito che è rotto. Senta, domani lei avrà un altro interrogatorio, se non sbaglio, no? Sì, giovedì. Sì. Lei ribadisce qual è le cose come si sono svolte, cioè il colpo partito accidentalmente? Esatto. È così, è successo e io non posso... Cioè durante una colluttazione, no? Esatto. E quanti colpi c'erano nel fucile? Erano due, ne è partito uno, l'altro è rimasto dentro. Cioè il proiettile è rimasto dentro oppure lei l'ha tolto dopo successivamente dal fucile? Non era caso di lasciarlo dentro, è sempre un pericolo lasciare l'arma carica. Assolutamente. Lei pensa che siano normali le indagini? Sì, ha fiducia nella magistratura? Certo, normale. Pensa che poteva agire diversamente, cioè senza prendere il fucile, col senno di poi, naturalmente, o no? Ma guardi, questa domanda qua lì è istintivo. Io ho protetto il pensiero che avevo in casa due, tre bambini piccoli, due gemelli di un mese e un bambino di due anni. Non volevo che succedesse questa cosa. Allora cosa facevo? Gli sono andato incontro, non potevo andare incontro a mani nude. Ho preso la mia arma e ho detto, ma magari mi vedono oppure scappano, perché già l'allarme suonava da qualche minuto, da diversi minuti. Però i rumori di sentivano ancora e tutte queste cose qua, e basta, è finita lì. E sono andato incontro senza sapere cosa incontravo. Era una legittima, cioè un gesto istintivo, sì, per non fare che succedesse il peggio. Per salire in casa, per andare in casa, loro basta. Loro finivano di razziare nel locale. Sì. E poi avrebbero potuto salire se io ancora non ero intervenuto. Spera di essere archiviato presto? Per forza, è naturale. Beh, per forza. Non sono andato a cercarmi io questa situazione. Sì. Non sono, perché io sono proprio dalla parte opposta della violenza. Sì, sì. Lei non aveva mai pensato di sparare in vita sua? O era già successo qualche volta? Ma no, io vado a caccia, sono un cacciatore, punto e basta. Nient'altro. Senta, che sentimento prova nei confronti della persona che è morta? Sono triste, sono amareggiato, sono commosso, sono, cosa devo dirle, io non è una situazione che non mi sono mai trovata, non ho mai neanche pensato di poter fare del male a una persona, ma neanche a parole, non è nel mio carattere, e questo qui è successo perché involontariamente, sì. Io sono stato tirato fuori da questa porta qua come l'ho aperta e sì. È partito sto colpo qui. Ne avevo dentro un altro e io non ho mollato l'arma, perché altrimenti se si impossessavano dell'arma mi avrebbero sparato a me. Certo. Il fratello della persona morta ha detto: io perdono, perché ha sentito il bisogno di dire di perdonarla, però vuole giustizia. Giustizia, perdono, che giustizia vuole da me. E se quello stava a casa sua non succedeva. La foto che lei ha fatto con Salvini, lei pensa che qualcuno si stia approfittando della sua situazione secondo lei è normale? No, tutta questa roba qui. Non sono, mi è capitato addosso tutta questa ondata di popolarità anche. Che non sono abituato, non so. Però sente che gli italiani sono dalla sua parte oppure no? Questo sì, perché guardi, ricevo da telefonate non solo dall'Italia, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Francia, dall'America, dall'Inghilterra. Ieri sera è stato un continuo. Sì. Un continuo. Ma questo è una cosa positiva, è una cosa che le fa bene oppure no? Sì, no, questo sì, perché io mi commuovo. Sono soddisfatto, mi tirano sul morale. Poi. Beh, tra l'altro c'è anche un elemento. Ma un tutti sti politici. Non le dà un po' fastidio di essere strumentalizzato? Guardi, io non sono abituato, forse sono anche ingenuo, perché mi sono trovato qua tutta sta gente. Cosa faccio? Li mando via? No, ma certo, ha ragione, che fa? Mica li deve mandare via. Non li ho chiamati io, no, però. Capito? Comunque speriamo che si risolva presto la situazione. La giustizia in Italia, diciamo, da questo punto di vista non dà molte garanzie. Lo so, però la mia paura è quella che fino ad oggi c'è ancora in giro troppa gente. Cioè lei ha paura che questi altri che sono rimasti fuori vengano a vendicarsi? No, i miei pensieri che mi assillano di perdere la fiducia nella vita, nell'andare avanti, cioè di non riuscire a andare avanti a reagire. Cioè si sente svuotato? Se vado in depressione ho paura di che magari possa commettere, non so, hai capito cosa vuol dire? Cioè che cosa, scusi? Nel senso che se non reagisco invece faccio di tutto, cerco di lavorare, di... Ma scusi, si sente depresso dopo quello che è successo? Adesso non ancora, la mia paura è quella, quella di evitare la depressione, esatto, di evitare di cadere in depressione. Di entrare, mi prende la malinconia, mi prende... Cioè sente di non avere più voglia di vivere? Dato la fiducia nella vita, la mia voglia di fare, di lavorare, di creare, di parlare, capito? E mi demoralizzo, la mia paura è quella che... Sì, certo, ma lei vuole tornare a cacciare, a usare l'arma oppure no? Io adesso non ho più voglia. Se riesco da questa situazione a finire bene, nel senso che di chiuderla positivamente, come spero, poi vedrò perché non lo so, adesso non so cosa potrebbe succedermi a me moralmente o fisicamente, se mi salta fuori questi shock violenti provocano sempre qualche conseguenza interno, Anche perché qualcuno dice che il vicino ha testimoniato, ci sono delle incongruenze nella testimonianza del vicino. No, io a me non interessano, dicono quello che vogliono, ma io la mia versione è quella che sono in testa, che quando la racconto mi viene di chiudere gli occhi perché la rivivo secondo per secondo e racconto quello che, e non posso sbagliare oppure dire poi quello che uno ha sentito o non ha sentito sono altre cose, certo, sono cose che non mi interessano, se vogliono credermi io sono qua. Va bene, grazie, stia su di morale, mi raccomando, forza, arrivederci. Grazie. Ragazzi, è un uomo commosso, un uomo distrutto, avete visto questo? Sparare, non è che sparare porta alla felicità, non interpretate male le mie parole. Io non ho mai detto che felicità è sparare. Tu sparare, fai il tifo, ma non è vero. In non realtà è un dramma, cioè, come cazzata. Dimostrano queste testimonianze? No, ma ti esalti, vai lì, Salvini si fa il selfie con questi. Ma cosa c'entra? Cioè, nessuno dice che è un bene sparare. Sta vivendo un dramma. Ma nessuno dice che è un bene sparare. Come no? Ma dici un giorno sì e l'altro pure, sparate. Cazzo, non ho mai il detto ladro questo. Deve entrare, ho detto entra che è un vivo diritto farlo. Così dite. Ho detto che è un diritto dai, farlo, certamente. Ma non dico che è la felicità. Farlo, non dico che comporta la felicità. Io faccio il tifo faccio il tifo contro il tifo. I ladri. Contro i ladri. Ma chiunque. Ma che banalità è? Ma chiunque. Io sono a favore dei ladri. Non ho capito. Meglio un ladro morto che mio figlio minacciato. Chiaro? Meglio un ladro morto che mio figlio minacciato. Ma non si tratta. Fermi ma tutti, non, infatti fermi esiste tutti. La legittima difesa. Oh, c'è un ospite che sta per entrare. Meno male. C'è un ospite che sta bene, per ottimo. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblico. La zanzara. Parenzo, sei un pezzo di merda. Tutte queste cose succedono per colpa delle teste di cazzo come te, hai capito? E io mi auguro che qualche giorno qualcuno, o non è detto che non lo faccia io, ti venga a prendere e ti spacchi quella faccia di cazzo che c'hai. Tu, pezzo di merda, servo dei padroni di merda, bastardo leccaculo. Queste cose succedono per colpa tua e per colpa delle teste di cazzo come te che l'Italia si è riempita di immondizia, hai capito? Bastardo, faccia di merda. Parenzo, servo dei potenti, ma quanto fai schifo a fare il cagnolino della Mussolini. Che uomo di merda, miserabile pezzente. Facciamo un delirio! La zanzara. L'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. E c'è un grande ritorno, come avete sentito, un grande ritorno da Strasburgo in diretta, Mario Borghezio, ecco. Mario! Eccolo! Grazie dell'accoglienza, una voce moderata ci vuole in questa trasmissione per sentire l'equilibrio, ha sentito, la tranquillità. No? Borghezio, le parole buone che vengono ho scese. Ho sentito delle persone che parlavano di lei. Sì, esatto. Vorrei pregare queste persone di non dimenticarsi, dato diciamo le idee chiare, in caso di elezioni Crocetta e scrivere Borghezio. Ancora? Ma perché lei ha riconosciuto? Ho visto elettori diciamo così con idee chiare e moderati e assolutamente non xenofobi. No, per nulla. No, assolutamente. Assolutamente. Quindi, senta, caro Borghezio, mi sembra qui Borghezio si sta preparando, sta preparando alla perché domani della... per lui siamo pronti. Ecco, all'Olanda, siamo pronti, l'Olanda, vogliamo le elezioni. Crocetta e scrivere Borghezio. Ma ancora, ma Borghezio. Cosa c'entra? No, per l'Olanda, ma manca l'Olanda. Beh, in Olanda purtroppo questi signori che abbiamo sentito purtroppo non votano, ma noi speriamo che anche in Olanda questo verbo di fratellanza, questa, questa posizione, diciamo, moderatamente energica possa diciamo ribaltare la vecchia situazione. L'Olanda era un paese un po', come dire, con massimo rispetto, sì, naturalmente, un po' di molaccioni, ecco. Invece si nota ultimamente con questa leadership bianca e cristiana, direi qualche cosa di diverso. Questo leader che abbiamo avuto con noi a Coblenza, è un razzista, però una bella espressione. No, razzista, che parole grosse, razzista. Ma no, vuole vietare il Corano, vietare la pubblicazione del Corano. Intanto stabiliamo un concetto: il razzismo non esiste. Ecco, bravo, molto bene. Molto esistono le razze. Esatto. Esistono le razze, il razzismo non esiste. Ha ragione Borghezio. Esistono le razze. C'è razza nei cani, c'è negli animali, nelle persone, eccetera. Ed è il bello del mondo. La diversità è il bello del mondo. Il Padre Eterno ci ha fatti diversi. La società multiraziale è qualcuno negro. E altri diversi, altri di colori diversi, altrettanto rispettabili. Cioè, è meglio che bianchi, scusi Borghezio, è meglio che bianchi vivano insieme da soli, diciamo, senza commistioni. Questa è la realtà. È molto questo meglio. Sarebbe diciamo, nelle vecchie intenzioni di chi ci ha fatti, eravamo belli separati. Belli separati. L'apartheid, sta dicendo. Poi purtroppo. La gente gira, il turismo, anche queste condizioni che facilitano i viaggi, consentono, eccetera, eccetera. No, scusi un attimo, voce così moderata, sta dicendo delle cose terribili. La società multiraziale fa schifo. Ma la società multiraziale è quello che vediamo dai nostri balconi. Cioè, fa schifo. Diciamolo, fa schifo. Lei fa diciamo orrore. Diciamo che vomitare è poco. Perché. La pensa così. Che stai dicendo, Mario? Mario! No, che pensavo ci fosse introdotta una nuova voce. Io credo che sia chiaro che la realizzazione di questa società, come la chiamate? Multiraziale. Diciamo, di diversi colori, crei molta confusione. Andiamo per ordine, Borghezio. Anche disordine. E dal disordine nasce la criminalità. Non c'è dubbio. Allora, caro Borghezio, andiamo per ordine. Parole molto chiare, diciamo la cosa. Uso delle armi. Allora, un ladro entra dentro casa sua. Che fa Mario Borghezio? Se ha un'arma, lei ha un'arma innanzitutto? Ha un'arma. In quel caso non si fanno distinzioni di razza, si spara. Nel buio è difficile capire se uno è nero oppure bianco. Quindi, in ogni caso, è sempre chiaro. Una regola aurea: prima sparare e poi verificare se trattasi di bianco, di giallo. O della moglie, magari la moglie poi. No, spara, che c'entra la moglie? No, spara, no. Sente. Ma la moglie generalmente rompe i coglioni, per cui uno sa già se non parla, se non cosa. Scusa, Mario, moglie, io voglio capire una cosa. Che sia taciturna. No, certo, voglio capire una cosa, Mario. Quindi, ma non ho capito, tu possiedi un'arma a casa? No, io diciamo ufficialmente non possiedo armi. Come ufficialmente? Che vuol dire ufficialmente non possiedo? Che armi ha? Io ufficialmente non possiedo armi. Ma cosa vuol dire ufficialmente? Però ufficialmente, o le ha o non ce ne ha? Dal punto di vista dell'ufficialità e dal punto di vista della legge non possiedo armi. Però potrebbe essere considerata anche arma, non lo so, i 47 volumi della Treccani. Vabbè, ma che c'entra? Li tira sulla testa, hai delle spade, dei coltelli? Diciamo che ho, come lei ha potuto vedere in una visita a casa tua, alla mia biblioteca c'è anche qualche piccola ascia, che sa. Qualche ascia non si può non tenere una bipenna in casa. Io colleziono solo bipenne. Ma come ascia in casa? Bipenne. Ma come si fa a tenere delle asce in casa? Perché è una reminiscenza, diciamo, etnica. Viene dai nostri progenitori barbari. Ma in genere uno in casa c'ha dei pesciolini, un cagnolino. Non delle asce, scusi. Ma l'ascia, se ben portata, rappresenta anche un elemento di stile, oltre che di attaccamento. Allora, chiediamo un'altra cosa a Borghezio. Greco-romana. Non c'è dubbio, Borghezio, chiediamo un'altra cosa. L'Islam. Poi adesso vado molto spesso a Malta. Sì, che succede a Malta? Mi piace molto questa civiltà. Ma perché? Malta, Creta, sono luoghi A Malta ci sono queste reminiscenze. Sono vabbè, ma adesso chi se ne frega? Diciamo in cui c'è un humus ancestrale, ho simboli, capito, eccetera. Ho capito perché va a Malta. Esatto. Allora, caro, da là si vede meglio la situazione. Caro Borghezio, l'Islam. A Malta non sbarcano. No, a Malta non sbarcano. Non sbarcano, non c'è. E fra un anno si vota. Quindi vabbè, contate su di noi. Le elezioni a Malta non è il nostro problema. Scusi, Borghezio, l'Islam che religione è? No, ma Malta è importante. Una definizione definitiva, una cosa definitiva di Borghezio sull'Islam. È una religione di che tipo di religione è? No, non troppo democratica. No, vabbè, non questo, troppo democratica. Tutte le religioni sono che volendo guardare la situazione, considerare. Ma c'è l'invasione islamica in Italia? Esiste un'invasione islamica? Critico. Esiste l'invasione islamica? È una domanda alla quale si può rispondere in un solo modo. Cioè, esistono i coglioni che li fanno entrare. E chi sono? Siamo noi, società aperta, buonista, Unione Europea, signora Mogherini, e tutto questo è anche qualche autorità pretesamente spirituale che dice fateli venire non ne fanno entrare manco mezzo, perché per avere la residenza nella città di Vaticano ci vuole un decreto firmato dal Papa che ha altro da fare. Come lo definiresti questo Papa? Tu che sei comunque il Papa è uno che... Ma noi vecchi tradizionalisti siamo tutti papisti, come ha detto il principe Ruspoli, un grande amico, eccetera eccetera, viva il Papa sempre e comunque, sempre comunque un po' è un po' nero, certo, no? Certo, alle volte l'età? Tutti noi quando gli anni passano passano anche per me. Senti Mario, ma Maometto la visione può essere Maometto, che pensi di Maometto? Ma Maometto è una figura che io collocherei nella storia. Rompeva i coglioni all'epoca sua, adesso... No, ma adesso diciamo non si può dire. Ma non può dire, ma come si può dire così? Ma è un profeta, cioè, diciamo, è un profeta che profetizzato l'invasione. Ma no, ma scusi, quindi... ma sta dicendo... si rende conto di questa cosa? Cioè, lei già c'ha poi la scorta, ma sta dicendo una cosa terribile. Qualcuno dice che è un pedofilo. Qualcuno ha detto che è un pedofilo. Ma non si può... Noi non insultiamo la figura di Maometto. Però, obiettivamente parlando... nell'equilibrio e nella tranquillità del periodo lui è stato un rivoluzionario, come tutti i rivoluzionari, diciamo notevolmente rompicoglioni. Ma se dicessero questo di Gesù, ma non è possibile dire così. Comunque, se dicessero così di Gesù, lei si offenderebbe. Quando qualcuno dice che era pedofilo, Maometto, pensa che sia un insulto oppure no? No. Beh, io credo che siano cazzate. Quello che invece, il paragone fra Maometto e Gesù è proprio perché anche Gesù è stato un rivoluzionario e agli occhi della società costituita, del legalismo, eccetera, poteva sembrare rompicoglioni, ma per me Gesù è una figura anche cristiana. Senta, Hitler, qualcosa di buono ha fatto o no, signor Hitler? Questo è un terreno delicatissimo. Questo è un terreno delicatissimo sul quale è meglio non esprimersi se non a gesti. Noi che siamo per radio possiamo fare il gesto, ma alto là. Ha fatto nessuno. Il gesto di viva. No, ha messo due. No, era Führer. Voleva dire Führer. No, no. Era la V di Führer con la dieresi sulla U. Ma anche Führer c'è una vista Borghezio, sarebbe stato meglio essere governati da un Hitler o da un Gentiloni? Questa è la realtà. Un Gentiloni? Ma guardi, ci mancherebbe altro. Gentiloni è un uomo di pace. Gentiloni non ripace, quando Gentiloni avrà un ministro come ha avuto quello là, che non citiamo là, perché è delicato, un criminale, che ministro ha avuto? Quando avesse avuto un ministro come quello che ha avuto quello là, non so se avete letto. Ma quello là ha fatto 6 milioni di morti, quello lì. Ma noi non parliamo di quello là, ma di quale ministro sta parlando? Di un'altra figura. Dunque, prima cosa, avete dato una letta anche superficiale alla straordinaria biografia scritta da Irving su Göring. Fermi che c'è la pubblicità. Fermi tutti e poi torniamo, perché voglio capire chi è il ministro che apprezza Borghezio. Non capisco chi è il ministro. Göring, tu apprezzi Göring? Io sono io sono animalista e quindi apprezzo i ministri che fanno quello che ha fatto quel ministro là. Ma quel ministro lì è un assassino, fermi. Ma perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top. Ma va su. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, perché quando la Mussolini ha sussurrato a bassa voce che durante il ventennio la gente lasciava le porte aperte, non hai risposto, non c'erano furti perché i ladri erano al governo, eh? Perché non le hai risposto così? Ipocrita, doppio pesista, leccaculo! Parenzo che lecca il culo a Mussolini, ormai è tutto degradato. Quando ci chiedono i soldi dell'IMU, noi dalla padania li poniamo così! Allora, grande ritorno alla Zanzara in diretta da Strasburgo. Eccoci. Con David Parenzo, Mario Borghezio. Seguendo il ragionamento Borghezio di prima, se noi in Italia avessimo un ministro come Göring, perché, insomma, no, perché è stato bravo? Beh, no, come io, no? Magari avessimo. No, ho fatto una valutazione storica. E ho detto che, per esempio, ci sono dei ministri. Criminale maledetto. Che hanno introdotto per la prima volta nel mondo la legislazione contro la vivisezione. Ma non si può ricordare Göring questa cosa. Ha contribuito a fare milioni di morti quello lì, quel criminale, 999 errori, e questo invece è una Ma lei ricorda ma solo la gli altri non l'hanno fatto. Ma che cazzo, ma lei era animalista, ma di Göring non si ricorda che era animalista, si ricorda che era un criminale assassino. Ma invece Irving lo sottolinea. Ma Irving è uno storico criminale revisionista a fronte della costruzione dei campi di concentramento, 6 milioni di morti. Però ha fatto una scoperta storica. Ma come che cazzo vuol dire? Scusami, Mario, per te quanti morti ci sono stati nell'olocausto, secondo te? Quanti sono stati morti nell'olocausto? 6 milioni o no? Ma io non o una cifra esagerata, certamente è stata una tragedia. No, d'accordo, diciamo, quello d'accordo, ma quindi, sono esagerati i numeri dell'olocausto? 6 no? milioni, è molto semplice, gli storici. No, ma sono esagerati i numeri o no, Mario? Ma che dimostrato niente? Aspetta, fammi rispondere, Mario. Io non posso escludere che siano 6 milioni, perché non ho visto onestamente, anche se a dire la verità tutta questa tematica del relativismo e del negazionismo sull'olocausto mi sembra leggermente fuori di testa. Si possono chiamare i neri negri, mentre è molto più interessante scoprire quelle cose che io stavo dicendo. Per esempio, in Francia tutte le leggi più interessanti, quelle che riguardano non solo la sicurezza pubblica, le ha fatte Vichy. Può piacere o non piacere, il fascista Vichy. Petain le ha fatte, perché il regime di Petain, ma guarda che patria, libertà, eccetera. Vabbè, dimmi eccetera. Una libertà cosa, però Mario, comunque, adesso per concludere, libertà non c'era, molta patria. Dimmi una cosa buona che ha fatto Hitler. No, ma parliamo della Francia. Perché se ne frega la Francia? E c'è scritto 1941. Cioè, l'elogio di Petain. Ma chi se ne frega? Ragazzi, ma chi cazzo se ne frega di Petain? Voglio capire una cosa. Ma è un nazista. Ma Petain, chi se ne frega? No, Petain è quello. Petain è quello che ha impedito ai tedeschi di fare della Francia quello che avrebbero voluto fare. Vabbè. Quindi, voglio capire. Tu chiami negro. Ma lei non è più secessionista. Lei non è più secessionista, Borghezio, però. Argomento delicato. Ragazzi, vi saluto, dai, delicato. Ciao Mario. Diciamo, Mario, ti saluto, dai, ciao, come bello. Sempre, ciao, e come ciao. Sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni. Bravo, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto. Vaffanculo politicamente corretto. Vaffanculo, viva la libertà. Scusami, anche la Boldrini allora. La Boldrini pure. politicamente argomento corretto. Argomento delicato. Ciao, non so perché appena si dice vaffanculo lei parla della Boldrini, ma ci sarà un motivo, un una relazione. Ciao. Un motivo, una relazione. Via la libertà. Allora, Mauro da Udine, vai. Finalmente. Parenzo, ti faccio una domanda. Sai cos'è la colpa d'autore? La colpa d'autore? Rispondi? Che cos'è la colpa d'autore? Che cazzo? Sì, no, io chiedo a Parenzo. Ma non lo sa, Parenzo, cos'è la colpa? Te lo spiego io, La colpa d'autore è la responsabilità che viene data a tutti quei gruppi che magari, tra virgolette, nella generalizzazione vanno a commettere reati. Però il Parenzo, il buon Parenzo, applica la colpa d'autore sulla sua convenienza, cioè sui maschi. Ma cosa stai dicendo? Ma che stai dicendo? Cosa stai dicendo? Te lo dico io. Ma cosa non ho capito? Ma no, parla, ma cerchiamo di capire che non si capisce un cazzo, dai. Allora io ho chiesto a Parenzo se conosce la colpa d'autore. Ma cosa vuol dire? È il suo principio. Lui applica la colpa d'autore nei confronti di tutte le persone che a lui non conviene. Colpa d'autore, ma hai rotto il cazzo. Claudio dalla provincia di Pescara. Aspetta, fermo, chi c'è qua? Tommaso, provincia di Imperia, dai. Sì, pronto? Dimmi. Volevo dire che Farage mi fa vomitare. Sì, vabbè. Peggio dell'Inghilterra. Vabbè, ti farà vomitare intanto. Come Borghezio e come tutti quei razzisti di merda che vanno contro la storia, proprio una manica di ignoranti che non capiscono che il futuro è continentale. Bravo. E la gente con le palle affronta la diversità, non ha paura del cambiamento, affronta il mondo come cazzo è. Tutti questi fascisti del cazzo, fascistoidi con la lingua lunga che fanno il cazzo duro, in realtà sono i più deboli, sono delle donnicciole del cazzo, come anche te, che avete paura. Io che c'entro, scusa, non ho capito. Ma mi sembra, basta, non voglio, non ti conosco, però mi sembra che dai spazio a queste persone. Ma noi intervistiamo tutti, noi intervistiamo tutti. Lo facciamo anche per farti incazzare, lo vedi? Ma fai bene a dare spazio al camionista, a tutti questi razzisti, neofascisti, nazisti, questa, per me. Ma tu stai parlando così, politico, senza... Con questa spazzatura, fai bene a dargli voce. Però non so se faccio bene o male, lo faccio perché esce fuori spesso la pancia, esce fuori la realtà, quello che uno pensa davvero dell'Italia, del mondo, della vita. Esatto, è giusto, perché ti dà uno stimolo per dire cazzo, devo prendere qualche libro e studiare, capire come cazzo funziona sto mondo, perché se andiamo nella direzione di questa spazzatura finiremo ancora in guerra ad ammazzarci uno contro l'altro, a prendercelo con i negri, i froci e tutti i diversi del mondo. Ciao Tommaso. La gente coi coglioni non ha paura di quattro negri del cazzo, non ha paura. Beh, li chiami tu quattro negri del cazzo, tu quello che fai l'antifascista, l'antirazzista. No, ma io dico così perché comunque quando tu puoi chiamare come vuoi, non è questione di parole, non hai paura del diverso. Questi qui che vengono qua, noi dobbiamo italianizzarli. Avere i coglioni vuol dire andare lì e dirgli: tu sei in Italia, questa è casa mia, queste sono le mie regole e tu ti comporti come cazzo noi abbiamo deciso che si comporta in Italia. Questo è avere i coglioni, non chiudere la porta, fare muri, mettere ringhiere, chiudersi dentro, sparare, dire via, fuori dai coglioni. Questi sono chi non ha le palle, capito? Chi ha paura. Invece bisogna andare lì, bisogna andare in mezzo, bisogna prenderli uno a uno e dirgli: tu sei in Italia, tu fai quel cazzo che questo paese ha deciso di fare dopo secoli di storia e non ti comporti come a casa tua. L'editoriale di Tommaso dalla provincia di Imperia. Ciao. Ciao. Presa diretta ieri sera, un ricercatore, Carlo Foresta, dice che abbiamo il cazzo più corto di un centimetro. Ragazzi, abbiamo il cazzo più corto di un centimetro. Cioè i nostri padri, i nostri nonni, probabilmente i nostri nonni avevano il cazzo più lungo. Vabbè, però scusa, se è una cosa capito, che noi capito. Cioè, se è una cosa generalizzata, Parenzo, a noi alla fine che ci frega? Cioè, che ci frega che 30 anni fa, sì, se siamo più sterili, siamo preoccupati, per carità, se abbiamo meno testosterone, come si dice, perché abbiamo, siamo pieni di sostanze chimiche, sicuramente siamo più preoccupati, forse, io non mi preoccupo per niente. Però se è per tutti così, cioè, se la media è quella di avere il pene più piccolo di un centimetro, qual sì, è il punto? Però, cioè, non mi sembra un tema di che meriti un approfondito. Ma come no? Ma assolutamente diciamo. Sì. Se tu lo metti da un punto di vista statistico e quindi ti preoccupi, se ad esempio, ne è occupata Rai 3, presa diretta su Rai 3. Anche questo, questo è vero. Effettivamente. Carlo anche Foresta, ricercatore, sentiamo dai. Nei ragazzi che noi abbiamo studiato oggi, la lunghezza del pene a riposo è di 0,9 cm. Più piccola, ridotta rispetto a quella riportata in letteratura. Che è quasi un centimetro. Che è quasi un centimetro. Ci sono oggi il 30-40% in meno di spermatozoi. Nel 1976 un uomo produceva 300-400 milioni di spermatozoi per eiaculato, adesso ne produce il 30-40% in meno. Produciamo il 30-40. Io questa cosa è incredibile, però, Parenzo. Cioè, quando tu vieni, cioè, devi calcolare che rispetto a che ha detto il professore emerito 30-40 anni fa, più o meno. Guarda, mi no, 30-40%. Ma tu devi stare attento a come si sviluppa la trasmissione, perché devi poter intervenire. Sono molto attento, meno male che stai dando queste notizie a borse chiuse, perché altrimenti cioè, allora, temo quando che, tu che vieni, appunto, quando tu vieni, in qualsiasi modo tu venga, se dentro la tua fidanzata, fuori, sulla tua pancia. Io vengo a Roma, vado a Roma. Io invece vado, vengo a Strasburgo, domani vado a Roma, moto a luogo. Dunque non vieni, anzi torno a Roma. Io domani torno a Roma. Benissimo. Allora, sono venuto a Strasburgo. Ah, e sei ora venuto? Torno a Roma. Ah, a Strasburgo sei venuto? No, amico mio, sei venuto. Scusami. Masturbazio, masturbazio non petita. La zanzara. Masturbazio no, non petita. Ho preso un aereo e sono venuto a Strasburgo. Vabbè. Ora da Strasburgo io torno a allora, Roma. Allora, comunque, ragazzi, ecco, quando voi venite, capito? Vi dovete rendere conto che producete un numero di spermatozoi nettamente inferiore a quello che sì, faceva questa tuo padre. È la radio economica del ma gruppo Sole 24 Ore. Infatti si occupa di numeri. Si occupa di numeri. No, occupa di sì, numeri. Ma non si occupa di questi numeri. Non beh, si occupa come no, di questi come numeri. No, assolutamente sì. No. Alessandro no, no, da Treviso, vai, Alessandro da Treviso, siamo verso la conclusione. Però abbiamo il contributo che darà questo qua adesso vai, alla trasmissione. Vai, sentiamo vai, il contributo. Oh, eccolo importante. Qua, Parenzo, eccolo vai, qua. Vai, Parenzo. Mangiatelo. Sì, eccolo qua. Da Treviso, eccolo qua. Sentiamo. Allora, giusto per iniziare, arriva... è 3 settimane che devo parlare con Parenzo. Ah, beh, allora, ottimo, vai, sì, 3 settimane. E a pagamento, sì, si paga, d'ora in poi si paga. Chi vuole parlare con me tu deve tu pagare. Tu non fai niente poi senza pagamento, manco l'uccello dai, la nulla, nulla. Senza pagamento. Nulla. Ascolta, allora, nulla. A casa mia a casa tutto sua bene, è tutto a posto? Sì, tutto bene, bene, perfetto. Anche trombare, la figlia, trombo, la, no, la figlia trombo, la moglie. Su questo mi arrivano Alessandro, notizie discordanti invece, sai? Parenzo, e siamo a posto, va bene? No, posso no, iniziare ora? Su questa ultima cosa che lei ha detto mi arrivano notizie diverse invece, perché mi risulta che invece lei purtroppo lì ha qualche problemino. Cioè, qual è questo il problemino detto, suo? Però, qual è il problemino? Mi arrivano dei messaggi su questa persona che è molto conosciuta a Treviso come una persona che ha dei problemi in quell'ambito lì, però va bene. Cioè, l'ambito scopereccio, dici. Vabbè, comunque, dimmi, Alessandro, vai. Mi hanno scritto, che scemi, mi hanno scritto, questo signore ha dei problemi. Vai Alessandro, vai però veloce, veloce, vai. La conoscono tutti in città, trauma, infatti, in città cioè, la infatti in città la conoscono tutti. Mi dice che non sì, è così male, comunque. Infatti, vabbè. Sì, può essere, allora, può essere, io volevo questo chiedere mi fa piacere per lei, mi fa piacere per lei, bene. Volevo chiedere alla sua eccellenza. Molto bene, sì. Sì, mi dica. Allora, se tecnicamente, sì, no, perché si voglio sì, per un attimo passare dalla parte della maggioranza silenziosa. Sì. Facciamo così. Voglio sì, per un attimo passare sentiamo dalla la parte scemenza. Dai, però vai, però vai. Va bene, va bene. Sentiamo allora, la scemenza, la scemenza, allora, se squipedale, rispettiamo sentiamo la legge. Io sono a casa. Oh, meno male. Bene. Meno male. Meno male. Mi sfasciano la finestra. Sì. Io sto sì, tranquillo. E non sarebbe male in alcuni casi, sto tranquillo allora? Seduto e in non tavola, sarebbe male. Allora? Bene, sto sì, tranquillo seduto in tavola, sì, con calma e pacatezza ah, prendo tavola, la cornetta, mm, telefono alla polizia sì, e dico buonasera, sì, ho il sì, presentimento che qualcuno sta entrando in casa. Mm. Bene. Dunque? Nel frattempo ecco, questa bene, persona è già arrivata dietro di me, mm, con una spranga e sì, mi ha già tirato una sprangata sì, in testa. Io a questo punto, quando lui mi ha tirato una sprangata in testa, posso io dare una sprangata mm, a lui? Beh, sì, in quel caso nettamente sì. Alessandro, è il minuto dello stupido. Ne parliamo domani, 20, però parleremo 50, anche la parola allo parleremo stupido. Anche questa di una è la rubrica cosa, nuova. Parleremo anche di una roba incredibile che viene presentata come una novità, sì, che viene dagli Stati Uniti, una nuova pratica sessuale, sì, che è praticamente una specie di anilingus e contemporaneamente eseguire un lavoro di mano. Cioè, si chiama rusty o rusty trombone. Cioè, tu anilingus, donna capito, con la lingua nell'ano e con la mano là. La presentano come una cosa nuova. Nuova Inox pratica sessuale. Signo vinces, ma come di che parliamo? Nuova pratica sessuale, una roba vecchia come il cucco. Nuova pratica sessuale, ma vaffanculo. Ah, già la conoscevi. Ma, tu cioè, ma tutti la conoscono, dai. Anilingus e certo, gioco di mano dall'altra parte, dai, su. Perfino gli uomini della Confindustria la conoscono. Ciao. Ma no, vai a fare il culo, bastardo che sei, Cruciani. Sei una razzista di merda, guarda. Sei una razzista, guarda. Sei una razzista di merda, sei. Bastardo che sei, Cruciani. Ma vado a far futuro, va. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Devono rompere i coglioni a chi va a puttana, io ancora non l'ho capito. Radio 24. Libera la voglia di fare.